Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ecco Enzo Arganti e il traghettatore, parliamo degli appuntamenti della settimana dal 21 marzo, in particolare parliamo del fatto che il 22, martedì, in concomitanza con i 45 anni di attività dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, verrà inaugurato l'anno 2011 dello IAP con una tavola rotonda. Ce ne parla il segretario generale dello IAP, Vincenzo Guggino. Sì, buongiorno, è l'occasione propizia per illustrare i dati sull'attività dell'Istituto nel 2010, ma soprattutto per approfondire attraverso ospiti esterni. Avremo il Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna, il Presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà, il Presidente della Corte d'Appello di Torino Mario Barbuto ed altri ospiti per approfondire il tema dell'autodisciplina in chiave di co-regulation con i poteri dello Stato. Cioè questa occasione per la prima volta può dare l'opportunità di verificare come istituzioni pubbliche, istituzioni private, quando ovviamente lavorano in termini di efficacia, possono cooperare per ottenere un risultato, in questo caso il controllo della comunicazione commerciale, a beneficio dell'intera collettività. Ricordiamo che a dispetto del nome roboante, Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria è un'iniziativa privata. Sì, l'istituto è privato, fondato nel 1946, ma opera attraverso dei giudici che sono completamente indipendenti dal mondo della comunicazione. Questo ha dato credibilità e condivisa accettazione del sistema, al punto che appunto un ministro e il presidente dell'antitrust verranno volentieri a Milano a salutare e a parlare di autodisciplina pubblicitaria. Da mercoledì fino al 25 marzo alla Fiera di Roma Ecopolis, che quest'anno sarà concentrata, avrà un forum sulla città sostenibile, in particolare nell'area del Mediterraneo. Ecopolis quest'anno ospiterà anche la premiazione dei vincitori del premio Impresa Ambiente, che è il più alto riconoscimento italiano per le imprese private e pubbliche che si sono distinte in un'ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale. Il premio è importante perché è una porta d'accesso all'European Business Award dell'inquinamento, che si rivolge alle aziende internazionali. Settimana prossima è anche la settimana di Fare la Cosa Giusta, la Fiera Nazionale del Consumo Critico e degli Stili di Vita Sostenibili. Quali sono le caratteristiche di questa 8ª edizione? Ce lo spiega il responsabile di Fare la Cosa Giusta, Giovanni Petrini. Fare la Cosa Giusta, lo dice il nome, è una 3 giorni dedicata alle esperienze pratiche e quotidiane per poter cambiare il nostro stile di vita, avendo una maggiore qualità, una maggior dignità, un maggior benessere per noi e allo stesso tempo guardare all'ambiente e ai diritti dell'uomo, alla società che ci circonda. Abbiamo visto che ci sono dei dati che sono significativi: l'anno scorso 65.000 visitatori, più del 30% rispetto al 2009, 620 espositori, più 25%, e 1.400 studenti partecipando al progetto scuola. Questo vuol dire che c'è ormai una sensibilità diffusa, una grande sensibilità su questi temi. Vuol dire questo, ma vuol dire anche che l'economia che noi mettiamo in mostra a Fare la Cosa Giusta, che è anche la stessa di cui parlate nella vostra trasmissione, è un'economia che sa offrire prodotti, servizi, progetti che hanno un valore importante, che sono di qualità e quindi che, così dire, sono concorrenziali, perché poi comunque siamo in un'economia di mercato. Qual è il progetto scuola? Che cos'è esattamente? Il progetto scuola è un percorso dedicato a tutte le scolaresche di ogni ordine e grado, quest'anno avremo anche le materne, che vengono condotti dai nostri volontari, più di 300 persone provenienti da tutta Italia, a conoscere le storie dei nostri espositori e a fare dei laboratori pratici per capire come funziona il commercio internazionale, ma anche come si può fare un orto nella propria classe. Abbiamo concluso. Ferribot@radio24.it, vi ricordo l'indirizzo a cui scrivere per segnalare le vostre iniziative di responsabilità sociale e di no profit. Ferribot va in onda il sabato alle 6.50, alle 13.55 la prima edizione, alle 6.50 alle 14 la seconda, quella domenicale. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Valeria Bernardi in regia.